I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani. Per i mercati finanziari internazionali il momento è davvero delicato. Anche la scorsa settimana si è conclusa con cali profondi e generalizzati che hanno colpito ogni area e ogni settore. Nel weekend persino le borse del Golfo Persico sono andate a picco in conseguenza agli accordi sulle sanzioni fra Stati Uniti e Iran. Il crollo del prezzo del petrolio domina la scena. Venerdì è finito stabilmente a $29 al barile sia a Londra che a New York, provocando un ribasso enorme per tutti i titoli minerari ed energetici. Stamattina il Brent sotto i $28 per la prima volta dal 2003 ha mandato in rosso ancora una volta tutta l'Asia. Poi la settimana scorsa sono finiti nella bufera i gruppi automobilistici a causa dei sospetti che gravano sul gruppo francese Renault, che potrebbe aver truccato le emissioni inquinanti dei suoi veicoli, insomma un altro Dieselgate, questa volta in versione transalpina. E a gettare benzina sul fuoco anche la notizia del contenzioso che si è aperto negli Stati Uniti fra Fiat e alcuni concessionari. Settimana durissima per Piazza Affari, che in questo primo frangente del 2016 ha bruciato tutti i guadagni che aveva realizzato lo scorso anno. In rosso profondo per tutte le società, anche se hanno contenuto le perdite alcuni titoli del settore bancario, alla luce della ripartenza delle scommesse su un possibile matrimonio in arrivo fra la Popolare di Milano e il Banco Popolare. Indiscrezioni che hanno riacceso la speculazione su una nuova fase di risico bancario in Italia, che possa avere fra le sue protagoniste anche Banca Monte dei Paschi. Per l'agenda della settimana prima dei saluti, oggi è chiusa Wall Street per la festività del Martin Luther King Day, ma continuano le trimestrali americane. Arriva in settimana anche il dato sull'inflazione. Giovedì una nuova attesissima riunione della Banca Centrale Europea. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alberto Orioli. È stata una giornata di tempesta sui titoli bancari italiani, con diverse sospensioni delle contrattazioni, e non a caso Piazza Affari è stata la peggior borsa d'Europa. A scatenare le vendite sembra sia stata l'indiscrezione su una imminente stretta della Banca Centrale Europea sui cosiddetti crediti in sofferenza. L'Italia è il paese che in Europa ha la quota maggiore dei cosiddetti non-performing loans, vale a dire i prestiti difficili da riscuotere, che sono pari a 200 miliardi, il triplo della media europea, vale a dire 16,7% contro il 5,6%. Le banche italiane però hanno superato anche di recente, va detto, gli stress test delle autorità europee e anche in modo piuttosto brillante. Ora, la notizia della possibile stretta BCE mette a repentaglio anche la stagione di aggregazioni che si è aperta con la riforma delle banche popolari. Con valori di borsa così bassi, le banche faticano a trovare una corretta valutazione dei loro asset e questo non facilita operazioni di fusione e di acquisizione, invece così necessarie per irrobustire l'intero sistema del credito italiano. A guidare i ribassi è stato il titolo Monte Paschi di Siena, con un calo in tarda mattinata del 13%, che sommato ai ribassi precedenti segna un vero crollo da inizio anno pari al 30% per il titolo della banca senese. Come spesso accade in questi frangenti, il monte è oggetto di pesanti speculazioni e ormai il valore del titolo è ben lungi da rappresentare la situazione reale della banca. Basta un dato da solo a spiegarlo. La capitalizzazione di borsa di oggi del Monte Paschi è pari allo 0,23% del valore degli asset certificati oggi dal bilancio. Avete capito bene, 0,23%. È per questo che è quanto mai urgente risolvere il tema della bad bank, in modo da confinare in un veicolo specifico tutti i crediti inesigibili e far ripartire il mercato sano del credito secondo logiche assai più razionali. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.